dentro i confronti della manifestazione, invece tuoni nei confronti, abbiamo visto, di Bonaccini, del nuovo governo, che dice di voler riconsiderare il passante di mezzo. È un silenzio quello verso la manifestazione di sabato davvero assordante e, come dire, in qualche maniera non giustificabile, perché ricordiamocelo, da quale Bonaccini sono coloro che si definiscono come i campioni della partecipazione, dell'ascolto, della cittadinanza, e oggi, dopo una manifestazione che ha visto decine di migliaia di bolognesi marciare sul passante per opporsi all'allargamento di autostrade tangenziali, non sentiamo una parola, come non l'abbiamo sentita in tutti questi mesi quando decine di associazioni hanno chiesto di fare una valutazione di impatto sanitario dell'infrastruttura. E quindi ci dobbiamo chiedere perché temono così tanto che venga fatta una valutazione di impatto sanitario, che peraltro è uno strumento fondamentale per fare ciò che loro sono chiamati a fare, ovvero tutelare la salute pubblica delle cittadine e dei cittadini di Bologna. Quindi, insomma, fa un po' strano aver sentito per tanti mesi la retorica della partecipazione, del coinvolgimento attivo della cittadinanza, e poi quando le cittadine e i cittadini prendono parola e lo fanno in maniera attiva scendendo in piazza, si fa finta che esse ed essi non abbiano detto nulla e si va avanti come se niente fosse, con i propri piani, con i propri investimenti, con i propri progetti infrastrutturali. L'hai citata tu, quello che potrebbe fare il nuovo governo, in particolare il Ministero delle Infrastrutture, cioè rivedere l'opera, ma, come dire, non è un'opposizione al passante quella, loro hanno un altro progetto. Chiaramente sì, infatti su questo credo il Corta è stato abbastanza chiaro e eloquente. Insomma, il Corta è contro ogni idea di cementificazione del territorio, quindi il passante ovunque esso sia, perché siamo contrari all'idea che la mobilità del futuro debba essere ancora basata sulla gomma, sul trasporto privato, sui mezzi di trasporto motorizzati, e pensiamo invece che il futuro sia nel trasporto pubblico collettivo e nella mobilità dolce. Crediamo che il sistema vada cambiato per ridurre il numero di mezzi che circolano e non che vadano costruite nuove strade per farli crescere ulteriormente, così come la proiezione di società autostrade, perché aggiungiamo anche questo, è falso dire che il traffico diminuirà, è invece detto dalla stessa società autostrade che il traffico, il numero dei veicoli al giorno aumenterà di 25.000 unità almeno, e quindi costruire strade ovunque se siano, che sia il passante al centro, che sia il nord, che sia il sud, conferma un sistema che crediamo contribuisca, assieme ad altri fattori, a portarci verso il disastro climatico. E insisto un attimo su quest'ultimo punto che citavi, perché anche sabato, forse anche a commento della grande manifestazione, alcuni esponenti del Partito Democratico, penso a Raffaele Persiano, rispondevano sui social ai cittadini dicendo: avete mai preso la tangenziale? Quindi giustificando in questo modo l'allargamento per decongestionare il traffico. E sarà decongestionato il traffico a Bologna? Ma intanto certo che l'abbiamo preso, perché non siamo dei marziani e sappiamo benissimo che le pendolari e i pendolari di Bologna soffrono ogni giorno delle code, che sono responsabilità di chi non ha pensato prima di cambiare modalità di spostamento per tanti cittadini, non offrendo prima un servizio pubblico all'altezza della situazione, capace, come succede del resto in altre città europee, e Bologna vuole essere leader in Europa su questi temi, eppure qui non c'è un'offerta di servizi di trasporto pubblico e di mobilità dolce capace di spostare crescenti quote di spostamenti dalle automobili ad altri mezzi. Per cui il punto è questo, non è porre l'ambientalismo contro chi va a lavorare, e questo la manifestazione di sabato l'ha fatto in maniera molto chiara e concreta: chi va a lavorare al giorno o chi si deve in ogni caso spostare per qualunque altra ragione ha il diritto di non trovarsi bloccato in una coda peraltro in cui è costretto a respirare di inquinanti della marmitta che gli sta immediatamente davanti, e ha il diritto di avere delle offerte di trasporto alternative che possono farci viaggiare in maniera veloce, comoda, a costo basso, e farci spostare nella città e raggiungere i posti di lavoro. Questo succede in altre città, non succede a Bologna, dove si continua a investire sul trasporto privato e si continua a dire che l'allargamento di una strada risolverà questi problemi, quando questi problemi si risolveranno il giorno in cui noi avremo davvero un sistema di trasporto pubblico capace di offrire a tutte e tutti la possibilità di spostarsi, avremo davvero un sistema di mobilità dolce in cui tanti potranno muoversi, come succede dal resto delle città del Nord Europa, dove le condizioni climatiche sono molto peggiori delle nostre, eppure tanti possono spostarsi in bicicletta perché ci sono le infrastrutture che permettono di farlo, e questo poi significa avere molte meno auto sulle strade, e quando abbiamo molte meno auto sulle strade, anche coloro che per ragioni particolari saranno comunque costretti a spostarsi in automobile lo potranno fare senza incorrere nella quotidiana coda.